l'ultima malattia è la morte, il presentimento della morte vicina. Senza dubbio, il santo curato d'Ars non solo ebbe molto tempo prima la sensazione dell'avvicinarsi della morte, ma ne conobbe in anticipo la data precisa. Dopo l'ultimo tentativo di fuga, 1853, ci dice Caterina Lassagne, il curato non parlò più della sua partenza dalla parrocchia, ma del suo trapasso dalla vita terrena all'eternità. Soleva ripetere, «Oramai ce ne andiamo, bisognerà morire, e presto». Prima del Corpus Domini del 1858 aveva ricevuto in dono una bella fascia. «Vi servirà durante la processione per sostenere l'ostensorio», gli disse Caterina Lassagne, ed egli rispose con un misterioso sorriso, «Non me ne servirò due volte». Difatti, per la festa del Corpus Domini del 23 giugno 1859, si sentiva già così debole che non aveva più la forza di portare il Santissimo Sacramento da un altare provvisorio all'altro. Glielo consegnarono solo al momento della benedizione. Per la festa d'Ogni Santi del 1858 mandò Caterina al castello di Siben per riscuotere la rendita di un franco al giorno che gli si dava per sentimento di carità. «Sarà l'ultima volta», disse un po' esitante, ma tosto ripeté con tono deciso. «Sì, questa sarà l'ultima volta». Nel luglio 1859 si presentò al suo confessionale una fervente cristiana di Saint-Étienne, la signora Pauz, che ogni anno con suo marito faceva a piedi il pellegrinaggio alla Louvèche. Il curato le parlò di San Francesco Regis, di cui aveva visitato la tomba, con l'animo riconoscente per tanti favori ricevuti. La signora Pauz, salutandolo, esprimeva il suo dispiacere perché non avrebbe più potuto ritornare. «Ci rivedremo fra 3 settimane», rispose il santo con sicurezza. Durante il ritorno, la pia signora, ricordando queste parole, pensava, non senza qualche dubbio, che forse il santo sarebbe passato per Saint-Étienne, e giunta a casa raccontò in famiglia le parole misteriose. 3 settimane dopo, il curato d'Ars e la sua penitente, morti quasi nel medesimo tempo, potevano rivedersi in cielo. Il 18 luglio, cioè 17 giorni prima della morte del curato d'Ars, la giovane Stefanina Durie, che assistette come vedemmo nella camera del santo alla fine d'una delle sue estasi, veniva ad Ars dopo un ritiro alla Louvèche. Al confessionale del santo si svolse questo dialogo commovente che si direbbe già quasi dell'altro mondo. «Padre, mi sembra di non aver fatto un buon ritiro, perché alla Louvèche ero preoccupata della vostra salute credendovi ammalato». «È vero», rispose egli, «che al presente non sono ammalato, ma la mia carriera è finita, è il mio ultimo anno. Questo ve lo dissi altre volte per sviare una vostra inutile curiosità, ma ora ve lo dico come lo so, è il mio ultimo anno. Non parlate però di questo, ho pochi giorni di vita ed ho bisogno di questo tempo per prepararmi. Se voi lo dite, si vedrà la gente accalcarsi per le confessioni ed io ne sarei affaticato. Ma voi siete già preparato alla morte. Io non sono che un grande peccatore. Vedete, io piango a questo pensiero. Ma che farò io allora? Se avrò la fortuna di andare in cielo, chiederò al Signore che continui ad essere sempre la vostra guida. Padre, domandategli di lasciarvi ancora qualche tempo in mezzo a noi. No, non posso domandargli questo. Il Signore non lo permetterà. Io lascerò presto il mondo». Poi, fra abbondanti lacrime, aggiunse: «Io non so se ho adempiuto bene gli obblighi del mio ministero. Padre, se vi affliggete voi, che ne sarà di me che devo vivere sempre nel mondo? Quello che fate voi non presenta dei pericoli, non fa spavento tanto quanto il mio ministero di sacerdote. Padre mio, il vostro lavoro è ben migliore del mio». «Ah, come temo la morte, sono un grande peccatore». «La bontà di Dio l'avete insegnato voi stesso, è ben più grande di tutte le vostre colpe. Vorrei essere sicuro come voi di andare in cielo. Ma, padre, quando morrete? Se non è alla fine di questo mese, sarà in principio del mese prossimo. Come potrò io sapere il giorno se voi non me lo dite? Qualcuno ve lo dirà. Assisterete ai miei funerali dopo di aver passato la notte accanto al mio letto di morte». La giovane Durie non osava prestare fede a simile predizione. Ma prima di assolverlo, il curato ritornò con insistenza su questo pensiero. figlia mia, ricevete l'ultima assoluzione del padre della vostra anima. Finita la confessione, Stefanina Durie chiese ancora: di grazia, padre, ditemi il giorno in cui morrete. No, non ve lo dirò. Sareste capace di fermarvi qui e avreste troppe seccature, ma lo saprete a suo tempo. Stefanina Durie partì il 22 luglio con diverse commissioni di Don Vianney e, giunta a Rohan, 12 giorni dopo, incontrò il padre Vadon, religioso, che le disse: ho saputo che il curato d'Ars è ammalato. Ella ricordò allora le parole del santo e si mise in cammino per Ars, ma non doveva più rivedere vivo il padre dell'anima sua. Giunta alla vecchia canonica alle 5 di sera, non intese che rumore di singhiozzi. Il santo era morto la notte antecedente. L'esaurimento estremo. Nel 1859, verso la fine di luglio, il caldo divenne torrido. Giorno e notte si era oppressi da un'afa insopportabile, simile a quella che precede i temporali. All'aperto l'aria era caldissima e la piccola navata della chiesetta d'Ars, piena di pellegrini venuti con affluenza insolita, era diventata come un forno e vi si soffocava. Ogni momento si vedeva qualche persona dirigersi verso la porta per poter cambiare aria, e il santo era sempre al confessionale, martire della sua eroica abnegazione. Un giorno, dalle sue labbra si erano udite queste parole: se un prete dovesse ridursi in fin di vita per le fatiche sopportate per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime, non sarebbe un male. Ed ecco che il suo sogno stava per divenire realtà. Il venerdì 29 luglio, appena alzato dal letto, si sentì male. Ciononostante, discese in chiesa verso l'una di notte ed entrò in confessionale, ma si sentiva soffocare e più volte dovette lasciare la chiesa per riposarsi un momento in cortile. Lo consumava la febbre. Alle 11, prima di fare il catechismo, chiamò in sagrestia il fedele Oriol, uno dei custodi volontari, e gli domandò un po' di vino. Ne raccolse qualche goccia nel cavo della mano e la beve. Poi salì sul pulpito senza aiuto di alcuno e accennò a parlare. Muoveva le labbra, ma nessuno capiva le sue parole. Si intuiva però che anche allora parlava del suo argomento favorito, poiché ogni tanto, levando lo sguardo al tabernacolo, lo fissava con gli occhi bagnati di pianto. Alla sera, rientrando a casa piegato in due, appoggiato al braccio di Fratel Gerolamo, sembrava vicino alla morte. Si trovava al suo passaggio la famiglia di Garez. Egli levò la mano tremante a benedire questi cari amici ed essi dissero piangendo: «È l'ultima volta che ci benedice». Ai piedi della scala ebbe una piccola crisi, ma si riprese. Fratel Gerolamo gli consigliò di ritornare all'aperto perché l'aria gli avrebbe fatto bene ed egli acconsentì. Sempre appoggiandosi, si diresse verso la casa dei fratelli, ma subito ritornò perché non si reggeva più in piedi. A stento raggiunse la sua camera. Fratel Gerolamo lo aiutò a coricarsi ed infine, cedendo alle sue insistenze, lo lasciò solo. Circa l'una dopo mezzanotte, sentendosi intirizzito, nonostante l'afa soffocante e senza un alito di vento, bussò per chiamare qualcuno. Caterina Lassagne, che ad insaputa del curato era rimasta nella camera vicina per essere pronta ad ogni minimo rumore, fu la prima ad accorrere. «È la mia povera fine», disse in un sospiro. «Bisogna chiamare il parroco di Chassan». Frattanto, avvisato da Caterina, entrava nella camera anche fratel Gerolamo. Era l'una e un quarto o l'una e mezza, l'ora cioè in cui durante quella stagione il curato era solito discendere in chiesa, ma al fratello sagrestano non parlò né di alzarsi né della messa. Si sentiva vicino alla morte e ripeteva: «È la mia povera fine, chiamatemi il confessore. Chiamo anche il medico? È inutile, il medico non può fare nulla». Don Toccanier accorse piangendo: «Signor curato, Santa Filomena, che vi ha guarito 16 anni fa, vi guarirà ancora questa volta». «Oh, Santa Filomena non potrà farci niente». Don Luigi Bo, parroco di Assan, e il medico Saunier di Saint-Euphémie arrivarono quasi assieme ai primi albori del giorno. Il dottore non poté che constatare l'estrema debolezza del malato, che non aveva più forza per reagire, e conchiuse la diagnosi con queste parole: «Se il caldo diminuisce, rimane un residuo di speranza, ma se il caldo continua, lo perdiamo». ed il caldo non fece che aumentare, intanto che su Ars si preparava un temporale. Quando i pellegrini giunti quella notte seppero che alla mattina il curato non sarebbe disceso e che forse non lo avrebbero più visto, ci fu una desolazione generale indescrivibile. La porta che si apriva sul cortiletto fu assediata ed alcuni, per non si sa quale favore, a meno che non fossero stati invitati dallo stesso curato, vennero a fare la loro confessione vicino al suo letto. L'addio ai parrocchiani. Don Vianney, sempre così riluttante a lasciarsi dirigere dagli altri, era diventato in quei momenti docile come un bambino. Si ricorderà con quale difficoltà durante la malattia del 1843 si era riusciti a fargli accettare un materasso. Questa volta, quando il mattino del sabato ne fu posto uno sul suo duro pagliericcio, non solo lasciò fare, ma ringraziò silenziosamente con un sorriso. Trangugiò tutte le medicine che gli presentarono e solo protestò quando una suora di San Giuseppe, che stava al suo capezzale, cominciò a cacciare le mosche che si fermavano sul suo viso coperto di sudore. Fece allora un gesto molto espressivo, quasi per significare: «Lasciatemi solo con le mie povere mosche, perché non mi danno noia. Soltanto il peccato mi dà noia». Aveva perfetta lucidità di mente, ha detto il suo confessore, che fu il testimonio commosso della sua fine sublime, e la conservò fino all'ultimo momento. Si confessò con la solita pietà, senza alcun turbamento e senza farmi parola del suo male. Né mostrò alcun desiderio di guarigione. Il demonio non ebbe il permesso di tormentarlo in quell'ora suprema. Il suo più grande timore era di cadere nella disperazione durante gli ultimi momenti, ma ora il timore della morte, che aveva manifestato tante volte e con tanta vivacità, era completamente scomparso. Aveva assaporato fino alla feccia le amarezze di questa povera terra d'esilio ed ora assaporava le delizie della morte, dimostrando la verità delle sue sublimi parole. Com'è bello morire quando si è vissuti sulla croce! I progressi della malattia furono rapidi, ma il servo di Dio sembrava godere una perfetta calma, senza lamenti, quasi non soffrisse più. Intanto, attorno a lui, che pure sembrava preferisse rimanere solo, si radunavano preti, fratelli e pii laici. Gli abitanti di Ars, i suoi diletti parrocchiani e molti pellegrini, si presentavano incessantemente alla porta della sua camera per far benedire oggetti di pietà e chiedere per sé un'ultima benedizione. Ed egli accondiscendeva volentieri a tutti questi pii desideri, senza dire una parola. La vigilia della morte, quando non si voleva che più alcuno giungesse fino a lui, vi furono di quelli che salirono a forza, anche se fratello Atanasio vegliava alla porta con la consegna di non lasciare passare nessuno. «Ci andremo anche se ce lo impedite. Fu curato nostro prima di essere curato vostro», protestarono i parrocchiani. Finalmente fratello Atanasio acconsentì a lasciarli entrare a patto che non facessero il minimo rumore. Quando giunsero ad inginocchiarsi sulla soglia della sua camera, silenziosi ma frenando a stento i singhiozzi, il santo li conobbe. Qualcuno guidò allora la sua mano tremante ed egli li benedisse con un segno di croce. Guglielmo Villiers, che senza dubbio si trovava tra i presenti, ha detto: «L'ho visto a letto l'ultimo giorno della sua vita. Era dolce e tranquillo come un angelo». Il conte di Garetz, che quasi mai lasciò la canonica in quei giorni di desolazione, fece venire anche i suoi familiari. Il santo fissò un momento quei figli che paternamente amava, ricordò che fino allora non aveva dato alcuna pia memoria a Marta Filomena ed indicò con la mano a fratel Gerolamo di portargli una corona del rosario. Ed i pellegrini, sempre affollati fra la canonica e la chiesa, chiedevano del loro confessore. Soprattutto coloro che erano giunti per ulti domandavano di poterlo vedere almeno una volta. Furono avvertiti che il santo li avrebbe benedetti dal letto e dal momento stabilito, al segnale di un piccolo campanello, si poté vedere quella moltitudine, entro e fuori della canonica, inginocchiarsi e fare il segno della croce. In chiesa si videro gruppi di persone rimanere a lungo all'altare di Santa Filomena a pregare la cara piccola santa di guarire il suo grande amico d'Ars, e ci furono anche anime pie che per ottenere questa guarigione fecero il pellegrinaggio al santuario della Madonna di Beaumont. fu fatto tutto quello che era umanamente possibile per portare sollievo al santo infermo. Il dottor Saunier aveva detto: «Se il caldo diminuisce, possiamo ancora sperare». Ciò bastò perché gli abitanti di Ars, nell'intento di portare un po' di frescura alla canonica, distendessero sopra il tetto lunghe tele che il signor Paget ed altri, salendo sopra scale, bagnavano ad intervalli. Ammirevole fu lo spirito di sacrificio di tutta la popolazione. Nella calma dell'estasi. Ormai il moribondo non pareva più appartenere alla terra. Le sue labbra non facevano più alcun movimento, ha detto il suo confessore, ma i suoi occhi fissi verso il cielo lasciavano intendere che egli era in contemplazione. Ritengo che vi fosse in lui in quel momento qualche cosa di straordinario. Alle diverse domande che gli venivano rivolte rispondeva solamente sì o no. Disse in effetti poche parole. La mattina del martedì 2 agosto si succedettero al suo capezzale fratello Atanasio e don Tocanier. Quando gli fu annunciata la visita del medico, disse: «Mi restano 36 franchi. Pregate Caterina di dargli al signor Saunier, poi gli dica di non più venire, perché non potrei più pagarlo». Don Tocanier confidò al curato i suoi timori per l'avvenire. «Padre mio, poiché il governo ha rifiutato l'autorizzazione della lotteria ed il signore vi chiama da questo mondo, è finita. Coraggio, amico mio, ne avete ancora per 3 anni. In quello stesso giorno, verso le 3 del pomeriggio, il suo confessore credette giunto il momento di amministrargli gli ultimi sacramenti. Del resto era stato questo il desiderio espresso dal morente, che si era opposto all'idea di farlo attendere fino al mattino seguente. «Quanto è buono il Signore», diceva, «quando non si può più andare a trovarlo, è Lui che viene». La campana della chiesa suonò i rintocchi, mentre il parroco di Jassin, accompagnato da una 20ina di preti, recanti tutti in mano un cero acceso, procedeva portando l'ostia. Al suono della campana che annunziava l'uscita del Santissimo, nuove lacrime brillarono sugli occhi del morente. Fratello Elia, che era vicino al capezzale dell'infermo, gli rivolse allora una domanda: «Perché piangete?» «È cosa triste comunicarsi per l'ultima volta», rispose il santo. Vedendo il corteo entrare nella sua camera, senza aiuto alcuno si alzò a sedere sul letto, congiunse le mani e versò lacrime più abbondanti ancora. Il suo confessore gli diede il viatico e l'estrema unzione, che egli ricevette con la solita fede e pietà. Nella camera, già eccessivamente calda, si dovettero spegnere i ceri. Dopo questa commovente cerimonia, il santo fu assistito da don Stefano Dubois, viceparroco di Farin. «Signor curato», gli mormorò il vecchio confratello, «voi siete col buon Dio?» «Sì, amico mio», rispose il curato con un celeste sorriso. «Festeggiamo oggi la traslazione delle reliquie di santo Stefano. Questo santo, mentre era ancora sulla terra, vedeva già il cielo aperto». E a queste parole il santo curato, così riferisce il testimone oculare, alzò gli occhi al cielo con un'espressione straordinaria di fede e di felicità. Il testamento del curato d'Ars. Una questione di una certa importanza lasciava perplessi il sindaco e gli abitanti di Ars. A chi sarebbero toccate le spoglie mortali del loro curato? L'ultimo testamento fatto da Don Vianney il 1 ottobre 1855 conteneva queste parole: «Lascio il mio corpo, dopo la mia morte, a disposizione di Monsignor Vescovo di Belley». E quale decisione avrebbe preso Monsignor di La Galerie? Gli abitanti di Dardilly a più riprese avevano sollecitato dal loro santo compatriota una parola in loro favore, e non avrebbe il Vescovo ceduto di fronte alle loro insistenti richieste? Ma sarebbe stato giusto fare scomparire completamente da Ars anima e corpo colui che con la sua santità aveva dato ad Ars tutta la sua bellezza e la sua gloria? Per questo, il mercoledì 3 agosto all'1 del pomeriggio, il signor Gilberto Raffin, notaio a Trevaux, si faceva introdurre con 4 testimoni nella camera di Don Vianney. «Dove volete essere sepolto?» gli chiese il notaio. Si tese l'orecchio e si udirono in un sospiro queste parole: «Ad Ars, ma il mio corpo non è gran cosa». E il signor Raffin scrisse il testamento che il santo non poté più firmare. Lo stesso giorno, alle 3 del pomeriggio, dice Don Beau, gli feci la raccomandazione dell'anima in presenza di molti ecclesiastici, mentre egli persisteva in uno stato di calma e di contemplazione. Poco prima erano giunti in tutta fretta dalle parrocchie ove predicavano Don Alfredo Monnen ed un altro missionario. Il 3 agosto, mentre Monsignor di Langalerie, vescovo di Ballet, era a Messimier, ove si facevano gli ultimi preparativi per la distribuzione dei premi fissata per il giorno seguente, gli fu arrecato l'annunzio della condizione disperata di Don Vianney. Senza un attimo di esitazione, lasciò il seminario e partì immediatamente per Ars, ove giunse la sera verso le 7, ansante, commosso, pregando ad alta voce e facendosi strada fra la folla inginocchiata al suo passaggio. L'ammalato conobbe il suo vescovo, lo salutò con un sorriso quasi a ringraziarlo, ma non poté proferire parola. Monsignor di Langalerie lo abbracciò, gli disse che andava in chiesa a pregare per lui e l'ammalato sorrise di nuovo. Fu quello il solo momento in cui, in quel giorno, lo vidi uscire dalla sua unione con Dio, ha detto il suo confessore che assistette alla scena. La morte. Verso le 10 di sera, sembrando ormai prossimo alla fine, Don Toccanier gli impartì l'indulgenza plenaria in articulo mortis. A mezzanotte Don Monnin gli diede da baciare il suo crocifisso di missionario e ricominciò le preghiere degli agonizzanti, che recitò lentamente, lasciando lunghi intervalli fra le diverse orazioni. Il giovedì 4 agosto 1859, alle 2 del mattino, mentre il giovane prete con voce tremante terminava di leggere le parole «I santi angeli del Signore vengano ad incontrarlo per introdurlo nella celeste Gerusalemme», e mentre nel cielo di Ars scoppiava un temporale con lampi e tuoni, San Giovanni Battista Maria Vianney, sorretto dalle braccia di fratel Gerolamo, rendeva la sua anima a Dio senza agonia, addormentandosi come l'operaio che ha bene impiegato la sua giornata. Il fedele Oriol ebbe la consolazione di chiudergli gli occhi. Il santo curato aveva 73 anni, 2 mesi, 27 giorni, ed era ad Ars da 41 anni, 5 mesi e 23 giorni. Circa le ore 4, Don Beau discese in chiesa per celebrare la messa da applicare secondo la sua intenzione. Il sagrestano aveva preparato i paramenti neri, ma colui che per 13 anni era stato l'intimo confidente del santo esitò ad indossare tali paramenti di lutto, dicendo che la vita del curato d'Ars gli pareva così santa da non potergli attribuire nessun peccato veniale deliberato. Dal campanile di Ars partirono i primi rintocchi funebri e la parrocchia di Ars, che era tutta nell'ansietà, lasciò libero sfogo al suo immenso dolore. I parrocchiani, incontrandosi, si scambiavano tra sincere lacrime queste parole: «Il nostro santo curato è morto». «Anche le parrocchie vicine parteciparono al nostro dolore», ha detto Marta di Garez. Il lamento delle campane li aveva informati del grave lutto. Da Savigné, da Miserieux, da Tossier e perfino da Jassin si udirono rintocchi funebri. Il parroco di Savigné credette bene di domandare il permesso al sindaco, signor di Bonrepos, il quale vivacemente rispose: «Ma le pare necessario domandarmi un simile permesso quando si è perduto il curato d'Ars?» La notizia della morte si sparse con la massima rapidità. Il telegrafo la portò ovunque e tosto le folle si misero in viaggio per Ars. La mattina del 4 agosto accorse colà anche Camillo Monnin, fratello del missionario e notaio di Villefranche, il quale così riferisce: «Lungo il tragitto vi erano numerosi pellegrini che venivano a piedi o in carrozza. Sulla piazza vi era una folla considerevole e tutti piangevano. Io stesso fui preso da questa commozione. Caddi nelle braccia di mio fratello e le nostre lacrime si confusero». Per la prima volta, dopo tanto tempo, quella mattina ad Ars il segno dell'Angelus era stato dato all'alba.